e si trova rifugio in questa vita che non ha più, che aveva una volta e non ha più, e per lui vivere o morire è abbastanza indifferente, insomma, una cosa che non lo lascia, non lo spaventa la morte a lui. Che cos'è secondo te che ha scatenato tutta questa polemica? Il fatto che Rocco Schiavone si faccia le canne, e quello che ha disturbato il fatto che lui sia comunque un vicequestore e quindi ha degli atteggiamenti controcorrente pur essendo nelle istituzioni? Non lo so, ma le dico la verità, non mi riguarda, non mi interessa. Io scrivo i libri e li leggo e li scrivo, guardo i film, vado al cinema, cerco di belle storie, dei bei personaggi, spero di emozionarmi e di riflettere quando leggo un libro, e di riflettere quando leggo un libro, e di riflettere quando leggo un libro. Però la fiction piace a te? A me piace la fiction, quella che fa riflettere anche, e non soltanto. Quindi diciamo non hai sentito il tuo personaggio in qualche modo trascinato in modo diverso? No, anche perché tu sei anche sceneggiatore TV, eccetera. La fiction è bellissima, è fatta proprio bene, sono contento di Marco Giallini, sono felicissimo di Michele Suavi che ha fatto la regia, la sceneggiatura l'ho scritta con Maurizio Careddu, siamo tutti e due molto contenti, a me piace quello che è venuto fuori, la fotografia è bella, gli attori sono bravi, di più non cosa puoi desiderare. Ha fatto uno share spaventoso, il Rai non è che me ne intenda tanto, ma mi hanno detto dei numeri, sono contentissimo, sono molto molto molto felice, tutto qui, sono contento che Rocco sia arrivato fino a lì. Arriveranno presto in TV anche i personaggi seriali di Maurizio De Giovanni, infatti dal 9 gennaio sulla Rai la fiction con protagonisti I Bastardi di Pizzo Falcone. Dopo aver scritto, diciamo, per anni noir ambientati nella Napoli anni 30 con il, possiamo dire, sì, malinconico commissario Ricciardi, De Giovanni ha deciso di raccontare anche la Napoli di oggi attraverso appunto I Bastardi. Sono così chiamati perché hanno preso il posto in commissariato di alcuni agenti corrotti, poi ognuno di loro, insomma, ha un passato misterioso, in alcuni casi anche equivoco. De Giovanni dunque scrive parallelamente sia su Ricciardi, sul commissario Ricciardi anni 30, sia sui Bastardi di Pizzo Falcone. Gli ultimi romanzi, quello con Ricciardi, Serenata senza nome, e quello con I Bastardi di Pizzo Falcone si intitola Pane, entrambi pubblicati da Einaudi. In questo speciale sul noir ci siamo soffermati sui Bastardi di Pizzo Falcone, in particolar modo su questo romanzo, Pane. Come negli altri, anche in questo caso De Giovanni non parla mai di delitti commessi dalla Camorra, nonostante, diciamo, tutti i casi, tutte le indagini, tutti i delitti vengano compiuti a Napoli. Come mai? Sentitelo. Ma guarda, per due motivi. Il primo motivo è che non ne so abbastanza. Io credo che la criminalità organizzata sia un argomento che dal punto di vista narrativo vada trattato quando lo si conosce bene. Io non ho competenze professionali, non faccio il magistrato, non faccio l'avvocato, non ho vissuto in luoghi ad altissima concentrazione mafiosa, quindi non ne posso parlare. Con cognizione di causa trovo particolarmente grave, anche nella fiction narrativa, parlare di cose che non si conoscono. Secondo, perché è una macchina. È una macchina il cui funzionamento è talmente freddo, anche nel crimine, nell'applicazione del crimine, è talmente basato sugli interessi che sinceramente non mi divertirebbe nemmeno raccontarla. Mi diverte molto raccontare le passioni, raccontare le emozioni, quindi i delitti che racconto io sono quelli che derivano dalla deviazione di una passione inizialmente positiva, un amore, un'amicizia, un rapporto materno, filiale, che deviano dal proprio corso e diventano qualcosa di radicalmente diverso e opposto e portano al delitto. Penso che queste cose succedano in una metropoli, mi interessa raccontarle. L'altro motivo ancora è che la Camorra dalle mie parti è un po' un ombrello, lo diventa, nel senso che qualsiasi normale condizione di malaffare, qualsiasi situazione di corruzione o di concussione o di semplice incapacità di svolgere un proprio lavoro di amministratore viene rinviata alla Camorra. Cioè si dice sempre è colpa della Camorra, e questo copre scopre a volte delle situazioni che sarebbero facilmente risolvibili con una normale attività di controllo del territorio. Il fatto che tu non parli appunto di camorra, di criminalità organizzata, hai detto è una macchina, è troppo fredda, ti piace più analizzare le passioni umane, si vede questo tuo aspetto di scrittore anche nel momento in cui parli dei personaggi, perché per esempio in Pane c'è la trama noir, c'è il giallo, c'è l'omicidio, il colpevole da scoprire, ma c'è soprattutto l'analisi dell'umanità dei personaggi, della varia umanità, perché poi i bastardi sono tanti e diversi. Perché ti piace analizzare questo aspetto dei tuoi personaggi, dare più, come dire, le atmosfere, i sentimenti, che non magari gli elementi di trama? Perché i personaggi sono vivi. Io credo che sia sbagliato pensare ai personaggi come degli attori che interpretano un copione. I personaggi dei libri sono vivi e hanno dei sentimenti, hanno delle emozioni. Come tutti quanti noi, portiamo un po' di casa al lavoro e portiamo il lavoro a casa. Anche loro sono personaggi. Io ho la fortuna di aver immaginato una storia con tanti personaggi ugualmente protagonisti, cioè non c'è un protagonista centrale dei comprimari, sono tutti protagonisti, quindi a me basta spostare la telecamera per entrare nella vita diversissima di ognuno di loro. Credo che questa sia una bellissima cosa per un narratore, cioè poter giocare fra i protagonisti aprendo le porte delle case ed entrando all'interno. È un'opportunità che non voglio perdere, quindi la trama si svolge attorno e dentro le vite dei protagonisti, non viceversa, non sono le vite dei protagonisti che si svolgono all'interno della trama. Cioè, mi piace spostare quest'ottica, spostare questa prospettiva che credo corrisponda di più alla realtà, cioè noi rimaniamo noi stessi, quello che ci succede è all'interno di noi stessi. Raccontare così credo che sia un'interessante inversione delle prospettive. Ha creato invece un nuovo personaggio che già vi possiamo garantire diventerà seriale, Massimo Carlotto. Lo ha fatto nel 2016 con il romanzo Il turista, pubblicato da Rizzoli. Carlotto viene soprattutto ricordato per aver creato il personaggio dell'alligatore, il detective senza licenza. Invece questo turista è innanzitutto più che noir, è un thriller, ma poi vedremo in che senso. Ed ha una caratteristica: questo è un uomo che cambia sempre città, il turista appunto, uccide le donne e si impossessa delle loro borse. E allora la prima domanda che abbiamo fatto a Carlotto è se sta cambiando genere, cioè se sta passando dal noir al thriller, o se queste sono, diciamo, solo definizioni che tendiamo a dare noi giornalisti. Sentiamo cosa ci ha risposto. Penso innanzitutto che uno scrittore sia libero di fare quello che vuole. Nel mio caso ho deciso di aprire una linea thriller, però alla Carlotto, nel senso fortemente contaminata dal noir. Ecco, perché io ci ho visto moltissimo del noir, ci ho visto anche un po', non dico i tuoi personaggi, ma il tuo modo di pennellare i personaggi, di descriverli dal punto di vista psicologico. Quindi quando ho letto interviste tipo Carlotto ha cambiato genere, sono rimasta un po' spiazzata. No, io non cambio genere, anche perché in questo thriller manca la sospensione. Ed è la sospensione una caratteristica importante del thriller. Io invece ho lavorato molto sulla velocità di lettura, c'è poca sospensione, però ci sono anche alcuni punti fondamentali del thriller, come i personaggi. I personaggi, allora iniziamo a dare un po' di indicazioni. Innanzitutto, vabbè, Massimo Carlotto, molti lo conoscono per la saga dell'alligatore, ormai sei arrivato a 9 romanzi con il tuo alligatore, ma c'era stata anche la tetralogia delle Vendicatrici, poi il personaggio di Giorgio Pellegrini che era presente in 2 romanzi, se non erro. Sì. Ecco, invece hai dato vita ad un nuovo personaggio, il turista, così viene soprannominato. Diciamo subito che il suo nome al secolo è Abel Cartagena, almeno così sembrerebbe, poi non andiamo nei dettagli, e ha una caratteristica: è uno psicopatico serial killer. Lui sostanzialmente, la prima parte vi assicuro vi toglie il fiato, le prime 10 pagine sono veramente da togliere il fiato. Lui segue le donne perché vuole impossessarsi della loro borsa, o meglio, segue le donne, le uccide e vuole impossessarsi delle loro borse. È psicopatico forte. Ah sì, sì. Tra l'altro è uno psicopatico consapevole, nel senso che sa benissimo di essere un personaggio piuttosto pericoloso. Lui segue le donne e le sceglie in base alla borsa. Questa lui è una feticista, cosa... ecco. Un maledetto feticista che ama le borse, perché affondare le mani nelle borse, frugare tra gli oggetti delle vittime è un modo proprio per saccheggiare la vita di queste donne. Infatti questo mi ha fatto molta impressione, perché lui per esempio non violenta, non usa violenza sessuale nei confronti delle donne che uccide, però il suo piacere è nel momento in cui torna a casa, mette questo lenzuolo candido sul letto e svuota il contenuto delle borse. Cos'è che gli piace trovare in queste borse? Aspetti intimi di queste donne, la lettera, la fotografia, il biglietto del cinema o del teatro, tutti elementi che possono fargli immaginare, entrare lì sì con violenza nella vita di questa donna, in qualche modo impossessarsene. Lui però non è un serial killer che lascia, come dire, una sorta di firma, cioè non vuole essere trovato, cioè la firma c'è perché scompare sempre la borsa, però questa caratteristica, lui cambia sempre città, per esempio, ed è per questo che viene soprannominato il turista, è uno che alla fine non vuole farsi prendere. No, nella maniera più assoluta. Abel Cartagena ha un passato da paziente. Nell'adolescenza ha avuto una madre che lo ha aiutato a nascondere con i soldi, a nascondere la patologia, e lui ha studiato se stesso. Lui è uno che fa di tutto per non apparire uno psicopatico, perché sa che il primo elemento per essere individuato e catturato, e invece lui proprio si nasconde, è riuscito a crearsi una copertura perfetta. Una copertura perfetta perché ha una moglie, addirittura un amante che inconsapevolmente lo aiuta poi a cambiare le varie città, perché lui apparentemente fa il musicologo, deve fare delle ricerche. A proposito della sua consapevolezza, tu a un certo punto scrivi nel romanzo: quelle letture, cioè la lettura di testi psichiatrici, lo avevano aiutato a comprendere la sua natura, ma non si era spaventato né era stato sopraffatto dall'orrore per i suoi crimini. Gli individui come lui erano totalmente incapaci di provare senso di colpa, rimorso, ansia o paura. Quindi lui è completamente consapevole di questa cosa e la usa. Sì, queste sono caratteristiche dei psicopatici, a cui bisogna aggiungere la totale mancanza di empatia rispetto agli altri, la mancanza assoluta di rimorso. Non provo nemmeno stress, ansia, ma hanno una caratteristica straordinaria, nel senso che sono i migliori manipolatori sulla faccia della terra. E quindi lui sfrutta questa capacità manipolativa, e questo gli permette appunto di avere delle relazioni sociali che lui ha studiato. Lui addirittura si è inventato la professione di musicologo, quando gli psicopatici non capiscono la musica. Perché loro non sono empatia. Suoni, non esatto. Hanno empatia. Non si emozionano. Esattamente. Dal thriller così sui generis alla Carlotto, possiamo dire, il thriller mescolato al noir, arriviamo invece al thriller vero e proprio, che possiamo definire all'americana. È scritto da un autore italiano, però ricorda molto i thriller appunto americani. Stiamo parlando di Donato Carrisi. Il suo ultimo thriller in libreria si intitola Il maestro delle ombre ed è pubblicato da Longanesi. È un thriller che fa parte del ciclo che ha per protagonisti Marcus il penitenziere e Sandra Vega, che invece è una poliziotta fotografa, che insomma ha la caratteristica di fotografare i luoghi del delitto, e poi osservando queste fotografie lei e Marcus riescono a trovare delle anomalie che li portano poi alla risoluzione del caso. E allora sentiamo come Donato Carrisi, diventato diciamo noto nel 2009 con la sua opera prima Il suggeritore, descrive i suoi personaggi seriali di Marcus e Sandra Vega. Marcus è un prete, ma è soprattutto un profiler. È una specie di criminologo che si è formato leggendo i testi dei peccati mortali conservati nel secolare archivio del Tribunale delle Anime, l'archivio della penitenzieria apostolica, e va in cerca di anomalie, che sono piccoli strappi nella realtà delle cose. Non sono esattamente dei dettagli, ma sono qualcosa in più, rivelano la natura malvagia di ogni uomo. E infatti anche questa, diciamo, inchiesta, questa indagine è contrassegnata dalle anomalie. Insieme a lui indaga, dicevamo prima, Sandra Vega, che è una poliziotta fotorivelatrice, cioè lei scatta delle foto sulla scena dei delitti oppure su, insomma, luoghi che possono essere interessanti per risolvere il caso, e attraverso queste foto riesce evidentemente a catturare delle cose che poi sono indispensabili alle indagini. vede ciò che a occhio nudo non si potrebbe vedere. Non mamma si mia, riesce vedere. L'hai recitato quasi come Carmelo Bene. Hai visto? Me la potresti rifare? Se vuoi. Vai. Vede ciò che attraverso la vista non si potrebbe vedere. È necessario il filtro di una macchina fotografica. Una macchina fotografica normalissima, attraverso cui però lei riesce a percepire questa energia cattiva, appunto del male presente nella scena del crimine. Rimane questa radiazione una volta che si è consumato un delitto, no? E anche davanti ai ma sono corpi... poteri soprannaturali? Ma no, non sono poteri istinto. Soprannaturali, soltanto che, guarda, noi che vogliamo razionalizzare tutto, soprattutto quando si tratta di cose malvagie, tendiamo a razionalizzare, non riusciamo ad accettare che invece esista qualcosa che non è sovrannaturale, ma è forse il frutto di una natura perversa che fa parte di ognuno di noi. Entriamo nella trama di questo Il Maestro delle Ombre. Io do sempre un po' di coordinate GPS, le chiamo così, agli ascoltatori che naturalmente non hanno ancora letto il tuo romanzo. Siamo a Roma, diciamo nei giorni nostri, e c'è un blackout che interessa tutta la capitale, ma c'è anche qualcosa d'altro, nel senso che tu proprio come premessa al romanzo riporti, diciamo, una bolla di Papa Leone X del 1521 in cui lui, diciamo, emana quasi una sentenza, cioè Roma non deve mai, mai, mai rimanere al buio, e invece il blackout ci sarà. Quindi questa, come dire, fa capire già che succederà qualcosa di male durante questo blackout. Ma guarda, per secoli se lo sono chiesti storici e teologi, si sono domandati: ma perché Papa Leone X ha emesso questa bolla? Quale mistero si nasconde nel buio di Roma? Perché è molto singolare il fatto che quel Papa sia morto 9 giorni dopo aver emesso quella bolla, in circostanze misteriose, perché probabilmente è morto avvelenato. E poi singolare che ancora oggi non sia stata revocata questa bolla, è ancora presente nonostante. Quindi il è fatto... vera questa, ed sì, è rimasta sì. Come una sorta di profezia, diciamo così. Ma si chiamava profezia, sicuramente io nel romanzo la definisco profezia, in realtà non c'è una spiegazione, ancora nessuno è riuscito a giustificare questa esigenza di Papa Leone X, ma nel buio di Roma si nasconde qualcosa, io sono convinto di questo. In questo speciale del Cacciatore di Libri abbiamo fatto un viaggio nel noir, nel giallo, nel thriller, all'italiana e non, potremmo dire. E prima di chiudere vi ricordo che potete trovare queste e le altre puntate, diciamo, regolari del Cacciatore di Libri su radio24.it nella sezione Il Cacciatore di Libri. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, a questo punto vi lascio ad un altro personaggio del brivido, un personaggio degli incubi, un horror vero e proprio, ma disegnato sulla carta. Stiamo parlando di Dylan Dog, personaggio creato da Tiziano Sclavi e pubblicato come fumetto dalla Sergio Bonelli Editore. Radio 24 ha dedicato a Dylan Dog un radiofumetto. Vi lascio dunque con Dylan Dog, un buon ascolto e una buona lettura da Alessandra Tedesco.